Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Gli invisibili di Nanni Balestrini, parte dodicesima. E allora a questo punto non mi ricordo più dove ero rimasto. In tutta questa storia, anche perché ci sono un sacco di cose che non mi ricordo più bene precisamente come sono successe, e ci sono anche un sacco di cose che non si possono ricordare, che si possono solo dimenticare. Non è che qui io voglio raccontare tutta la storia della mia vita e neanche voglio raccontare tutto quello che è successo in questo periodo, in cui sono successe tante cose diverse, di tutti i tipi, contraddittorie, che metterle tutte insieme, cercare di dargli un senso, mi sembra proprio impossibile. Ma quello che mi interessa qui adesso è soltanto raccontare, ma così, dal mio punto di vista, naturalmente queste storie che mi sono successe, così, perché forse adesso vale la pena di raccontarle. A scuola era successo che dopo che l'avevamo cacciato, il preside Mastino se n'era andato e i professori si erano dovuti adattare, il loro potere era crollato. Avevamo ottenuto le assemblee, avevamo ottenuto tutto, niente più interrogazioni, niente più registri, sospensioni, giustificazioni, eccetera. La scuola era scoppiata, in breve tempo era diventata una scuola aperta, ci veniva gente di tutti i tipi, amici e studenti di altre scuole, operai che non andavano al lavoro, ci venivano disoccupati invece di andare al bar e emarginati vari, invece di andare in giro. Li chiamavamo esterni, tutti questi, e così la scuola era diventata una fiera, un bazar. Ci si giocava a scacchi, a carte, ci si portava da bere, gli spinelli. I professori assistevano impotenti, senza osare alzare un dito, a tutto questo sfacelo. Uno di questi esterni era Nocciola, che ormai a scuola ci veniva tutti i giorni. Nocciola campava rubacchiando nei supermercati e nei negozi, fregava di tutto, anche quello che non gli serviva, perché poi lo rivendeva e la scuola era diventata un po' il suo mercato. Addirittura c'era chi gli prenotava dei mocassini o un giradischi. E poi anche noi, che non avevamo soldi e che adesso ci rompeva le balle chiederli a casa, per fortuna c'era Nocciola, che ci insegnava mille sistemi per campare con pochi soldi e per trovarne un po' rubavamo in massa nelle librerie e poi vendevamo i libri alle bancarelle, falsificavamo i tesserini delle mense. Nocciola sapeva aprire le cabine del telefono e girava sempre con chili di gettoni nelle tasche, pagava tutto in gettoni, andava al cinema e pagava in gettoni. Poco a poco abbiamo cominciato anche a vendere la scuola, abbiamo cominciato a smontarla, proprio a smontarla, e a vendere la roba pezzo per pezzo, lampade, macchine da scrivere, sedie, sgabelli, le enciclopedie della biblioteca, il materiale del laboratorio di chimica e di fisica, le bacheche e gli armadietti. Non è rimasto più niente nella scuola. Una volta hanno ricomprato tutto nuovo, ma noi abbiamo venduto tutto un'altra volta, e così hanno lasciato perdere. I professori non lasciavano neanche più la macchina al parcheggio, se no gli sparivano le gomme. La scuola era ormai diventata uno spazio vuoto, vuoto anche di interessi, completamente estraneo, da cui a un certo punto ci siamo resi conto che bisognava uscire per andare a svuotare qualcosa d'altro, e così non ci siamo più andati e abbiamo cominciato a vivere nella sede. Quando abbiamo preso la sede, è successo che eravamo andati nella sede di un gruppo marxista-leninista per chiedere la possibilità di utilizzarla per le nostre riunioni. Era una sede molto grande, 5 o 6 stanze, era il pian terreno di un vecchio stabile del centro, era tenuta benissimo, c'era il parquet lucido, un ambiente molto decoroso, con le tende rosse, però era molto triste, quelle grandi stanze vuote e un odore di chiuso e di chiesa. Sui muri c'erano enormi manifesti cinesi, incorniciati sotto vetro, manifesti di operai e contadini cinesi molto muscolosi e sorridenti, sempre col pugno alzato, e grandi striscioni appesi per tutta la lunghezza delle pareti. Viva l'eroica vittoria del popolo cambogiano! C'era una sala adibita a centro culturale, il centro culturale Antonio Gramsci, c'era scritto sulla targhetta lucida della porta. Quando abbiamo suonato, c'era lì solo un compagno che stava ordinando i libri della biblioteca, quasi tutti edizioni cinesi delle opere di Mao e Stalin e altre cose così, e ci ha annunciati al compagno segretario che stava nel suo ufficio dietro una scrivania lucida dove c'era il telefono. Il segretario era un personaggio piccoletto con un gran pancione, sempre molto serio, con un gran pastrano grigio che non si levava mai. Gli abbiamo detto cosa volevamo, ma lui si è messo a parlare di linea politica, facendoci una grande tirata sulla linea politica del suo partito. Voleva un confronto politico, ma a noi del confronto politico non ce ne fregava niente. In quel periodo c'erano un sacco di lotte in piedi e questi qui non si erano mai visti, e adesso veniva a chiederci il confronto con la linea politica del loro partito. Non ce ne fregava niente, ma abbiamo dovuto ascoltare tutta la sua tirata trionfalistica sul suo partito. Guardavamo il telefono sperando che suonasse per interromperlo, però non suonava mai. Ma poi ci dice che però in quella particolare congiuntura di fase la presenza del partito in città si era affievolita per l'espulsione di alcuni militanti per deviazione di destra e di sinistra. Però avevano 3 operai attivi come cellula del partito in 2 fabbriche e uno studente, ma questo studente nell'ultimo periodo frequentava Gentaglia che si ritrovava alla stazione e addirittura si sospettava che si drogava. E alla fine il compagno segretario si è lasciato andare dicendo che non aveva più i soldi per pagare l'affitto e anche il telefono era tagliato. E i 3 operai ne avevano pieni coglioni di tassarsi i salari ogni mese per pagare la sede. Così ci siamo messi d'accordo che loro ci passavano tutte le stanze meno una. E così è stato. Loro in 3 o 4 hanno alzato un muro per isolare la loro stanza dalle altre e hanno fatto un'entrata autonoma. Ma dopo tutto questo lavoro non li abbiamo più visti né sentiti, finché ci siamo accorti che non venivano più. E allora abbiamo buttato giù il muro e abbiamo usato anche la loro stanza. Subito, nel giro di pochissimi giorni, c'è stato un grande afflusso di persone. Tutta la gente sparsa del movimento ha cominciato a affluire lì. È arrivato di tutto, operai, studenti, disoccupati, donne, fric, vecchi compagni di gruppi extraparlamentari, anarchici. Era un luogo diverso dalla classica sede dei gruppi. Quella era una sede di movimento e, dato che era grande, offriva molti spazi per tutte le differenze. Avevamo ereditato tutto l'arredamento degli ML, le loro sedie, le loro scaffalature, i loro armadi. Il telefono invece se l'era portato via il compagno segretario. Avevamo ereditato i grandi manifesti cinesi incorniciati con Mao che passeggia sorridente in mezzo alla campagna, seguito da trappelli di contadini con la falce, chi col forcone, chi col fucile, e li abbiamo lasciati lì. La sede era sempre aperta, si faceva finta di chiuderla la sera, accostando la porta, ma in realtà le chiavi non esistevano. C'era gente che andava, gente che veniva in continuazione, c'erano riunioni di operai, di studenti, di precari, di ospedalieri, di donne, ma anche gruppi che venivano lì con le chitarre, i flauti e il resto, a suonare, a fumare gli spunelli, a fissare gli appuntamenti per la serata. Era diventata una tappa obbligata nella giornata di tutta la gente. I compagni ovviamente utilizzavano la sede anche come luogo dove elaborare i vari sistemi per non pagare le bollette della luce, del gas, del telefono, i sistemi per non pagare i trasporti, per sabotare le macchinette dei biglietti degli autobus, per falsificare i biglietti dei treni, per sabotare i contatori della luce, eccetera. Erano cose che partivano spontaneamente da individui o da piccoli gruppi e che, comunicandosele, avrebbero poi portato a organizzare vere lotte di massa. Su queste cose, per esempio, si era presa l'abitudine di andare la domenica al cinema gratis. In 50-60 si entrava tutti di propria utenza, o al massimo, se si capiva che avrebbero chiamato la polizia, si scendeva al patto della colletta, una somma irrisoria, del tutto simbolica. Stessa cosa per i negozi di lusso del centro. Entrare in 30-40 in un negozio di ricchi già di per sé intimidiva mica male. E senza neanche fare le cose troppo in fretta, era semplicissimo portarsi a casa un piatto dello stereo, una piastra, un giubbotto di pelle, una macchina fotografica, eccetera. Stessa cosa per le lotte dei trasporti. Si viaggiava a gruppi numerosi e si dichiarava che non si pagava, distribuendo poi alla gente dei volantini per invitarli a fare lo stesso, finché diventava un'abitudine e il bigliettaio neanche più chiedeva il biglietto ai compagni. Neanche quando erano soli. In un primo tempo la società degli autobus ha pensato di mettere delle guardie sugli autobus, ma poi ha dovuto rinunciare, perché a questo costo doveva sommare quello della devastazione delle stazioni e anche quello di un paio di autobus andati in cenere nella notte. La nostra sede era in pieno centro e tutta la zona circostante era di fatto occupata da noi. Ci circolava gente del movimento, fuori sulle panchine del giardinetto, stazionavano per tutto il giorno gruppi di compagni. A circa 200 metri c'era un grande magazzino che era quotidianamente visitato da gruppi di compagni. Quelli della direzione del grande magazzino, a un certo punto, hanno pensato di reagire a quella spudorata razzia quotidiana e hanno messo lì un gran numero di guardioni. Questi un giorno si sono messi a correre dietro a dei compagni che avevano rubato della roba da mangiare. Gli hanno corso dietro anche fuori e allora i compagni si sono messi a correre verso la sede e hanno cominciato a gridare. È stato un attimo, allarme generale, tutti fuori con le bandiere, che in realtà erano manici di piccone con attaccata una strisciolina rossa. I guardioni non se lo aspettavano, hanno frenato a pochi metri dalle prime bandiere. Retromarcia e via, però hanno saputo il nome di una nostra compagna e l'hanno denunciata. E per paura di una reazione da parte nostra, hanno chiesto due auto con gli sbirri davanti all'entrata. Allora le compagne hanno deciso una bella mossa. Si sono messe tutte vestite bene e sono entrate in 20-30 nel grande magazzino. E una volta dentro hanno cominciato a girare nel reparto abbigliamento con delle lamente. E zac, zac, maglioni, gonne, pantaloni, impermeabili, vestiti, mantelli, un vero disastro. Milioni di danni. E poi se ne sono uscite tranquille. Nessuno si è accorto di niente. Le macchine della polizia sono rimaste di guardia per altre 2 settimane. E intanto la gente andava a rubare in un altro supermercato. E poi tutto è ricominciato, anche lì, di nuovo, un'altra volta. In un primo tempo la sede è stata utilizzata dalla massa del movimento, principalmente per queste attività. Alcuni addirittura utilizzavano la sede come abitazione provvisoria. Quelli che magari il giorno prima se ne erano andati di casa diventava il loro bivacco notturno. Tiravano fuori dall'armadio il sacco a pelo, che poi la mattina lo riarrotolavano e lo rinfilavano nell'armadio. C'erano i bagni e il riscaldamento, e in una stanza si è ricavato anche un bar. Il momento dell'incontro di tutti era l'assemblea generale, che si teneva nella stanza più grande, circa ogni settimana. Tutti insieme, pigiati, si discutevano insieme le cose che i vari collettivi avevano intenzione di fare, avevano fatto nel corso della settimana. E ci ponevamo il problema di come utilizzare la forza che ci eravamo costruita per generalizzare l'offensiva nelle fabbriche, nelle scuole, negli ospedali, nei quartieri, nelle piazze, e preparavamo i volantini. Generalizzare l'offensiva significa radicalizzare l'insubordinazione a qualsivoglia gerarchia, esercitare la nostra creatività distruttiva contro la società dello spettacolo, sabotare le macchine e la merce che sabotano la nostra vita, promuovere scioperi generali selvaggi a tempo indeterminato, riunirsi sempre in assemblea in tutte le fabbriche della separazione. eleggere delegati sempre revocabili dalla base, collegare costantemente tutti i luoghi di lotta, non trascurare tutti i mezzi tecnici utili alla comunicazione liberata, dare un valore d'uso diretto a tutto ciò che ha un valore di scambio, occupare in permanenza le fabbriche e gli edifici pubblici, organizzare l'autodifesa dei territori conquistati e avanti musica. La cella di isolamento aveva 2 metri per 3 di lunghezza, una branda di ferro fissata a terra, un materasso di gomma piuma, un cuscino di gomma piuma, 2 lenzuola, una federa, un cuscino, una coperta marrone, un lavandino di ceramica bianca sporco e non c'era altro. Sulla parete di fondo, di fronte alla porta, c'era una finestra sbarrata. Dietro alla finestra una rete che dà su un cunicolo che permette appena il passaggio di una persona, ma da molto tempo non ci deve più essere passato nessuno, dalla quantità di polvere, sporcizia e ragnatele accumulata. La cella è illuminata da una luce piuttosto forte, che proviene da una lampadina che non si vede, ma che si deve trovare nel corridoio sopra la porta, e la luce filtra attraverso una grata di ferro quadrata di circa 30 centimetri di lato. Il pavimento è una colata di cemento solcata da crepe di diverse dimensioni. Le crepe sono piene di polvere, di mozziconi di sigaretta, di pezzi di intonaco, di sporcizia. I muri, che una volta dovevano essere bianchi, hanno un colore giallo sporco e pezzi di intonaco si staccano qua e là dappertutto, dopo aver formato prima delle bolle per via dell'umidità. Le bolle si gonfiano, poi si spaccano, poi i pezzi di intonaco cominciano a staccarsi e a cadere. Si staccano anche dal soffitto basso e irregolare e cadono in mezzo alla cella, sui muri, scritte di ogni genere. Scavate nell'intonaco con le unghie o bruciate con le sigarette, le scritte sono moltissime, intricate, sovrapposte, semicancellate, fino a confondersi. In basso, sulla sinistra, a livello del pavimento, una porticina di ferro, alta 30-40 centimetri, socchiusa. La apro. C'è un piccolo vano e dentro c'è un secchio di metallo, tutto rugginoso, da dove esce una puzza nauseabonda. Dentro ci sono ancora residui di merda e di piscio, scarafaggi, insetti schifosi. Con un calcio chiudo lo sportello. Non cagherò mai lì dentro. Impossibile. Adesso non devo cagare, ma devo pisciare. Vado a pisciare nel lavandino, anche quello piuttosto schifoso. Tutto scrostato e pieno di crepe. Si può spaccare da un momento all'altro. Faccio scorrere a lungo l'acqua dallo sportello, è venuto fuori una puzza che mi fa quasi vomitare, ma forse la puzza c'era già prima e non me ne ero accorto. È la puzza di quel sotterraneo. La puzza nauseabonda di piscio, di merda, di vomito, di chiuso. Provo a trattenere il respiro per qualche secondo, ma è la stessa cosa, non cambia niente. Anzi, quando riprendo a respirare è peggio. Mi guardo in giro, ma non c'è niente da guardare. Mi siedo sul letto e ascolto, sento solo il passo lento e strascicato di una guardia su e giù per il corridoio. A differenza della cella in questura, qui c'è silenzio, ma forse il silenzio è peggio. Mi guardo le mani, nere, d'inchiostro. Provo a lavarmele con l'acqua nel lavandino, ma non c'è niente. Neanche un pezzetto di sapone e l'acqua scorre via sull'inchiostro impermeabile. Allora penso di raschiarlo via con uno dei pezzi di intonaco che si staccano dalle pareti, ma è inutile, ci rinuncio e torno a sedermi sul letto. Cosa faccio adesso? Mi chiedo. E adesso cosa faccio? Cosa si fa qua dentro per far passare il tempo? E poi penso che non so nemmeno quanto tempo dovrò passare qua. Non so nemmeno cosa devo aspettare. No, ecco, l'avvocato devo aspettare. L'avvocato, uscirò dalla cella per vedere l'avvocato, ma poi dovrò tornarci ancora e mi prende una sensazione di oppressione, come se qualcosa mi schiacciasse i polmoni, il cuore, lo stomaco, tutto dentro, tutto chiuso, compresso, un blocco doloroso. Mi guardo le mani nere. Devo stare attento dove le appoggio. Per non sporcare dappertutto i vestiti, le lenzuola, ma non ho niente da prendere. In mano non mi hanno lasciato niente, solo un pacchetto a metà di sigarette, ma non l'accentino. Cosa mi servono le sigarette se non ho niente per accenderle? Il rumore della chiave che si infila nella porta. Due giri. La porta si apre. Appare il capoposto con due guardie ai lati e mi dice che devo andare dal dottore. Io esco senza fare domande, perché indovino che è la prassi. Andiamo fino in fondo al corridoio e arriviamo all'ultima cella, che è stata trasformata in infermeria, se così si può chiamare, con dentro un lettino coperto da un telo di plastica trasparente, una scrivania e un armadietto di plastica, con dentro qualche scatola di medicinale. Il dottore è giovane, la faccia antipatica e infastidita, mi guarda appena, di sfuggita, poi scrive su una scheda le mie generalità e comincia a chiedermi le malattie dell'infanzia e dell'adolescenza. Morbillo, orecchioni, varicella, tutta quella roba lì. Legge su una lista, tirando via veloce come un treno. Non sta neanche a aspettare che risponda. Fa un segnetto a tutte le righe della lista e alza la testa, solo alla domanda se ho delle malattie infettive. Gli rispondo di no. E allora quello ha finito. Fa uno scarabocchio in fondo alla scheda e un gesto alle guardie per dire che possiamo andarcene. Il tutto è durato un minuto. Sono di nuovo nella mia cella. Il cancello e la porta metallica sbattono alle mie spalle. Resto lì, un po' in piedi, poi decido di fare il letto. Faccio tutto molto lentamente, ci metto il doppio o il triplo del tempo che ci metterei di solito, per cercare di occupare più tempo possibile. Quando arrivo alla coperta mi rendo conto che non deve essere lavata da mesi. Appena la smuovo si alza un sacco di polvere, pesa il doppio, tanto è piena di polvere, macchie di roba secca, la coprono un po' dappertutto, fa veramente schifo, ma fa freddo e non posso rinunciare alla coperta e la stendo ugualmente sopra le lenzuola. Mi stendo sul letto e comincio a leggere le scritte sui muri, cercando di fissare una scritta dopo l'altra, di decifrare le scritture, di leggere tutto quel groviglio di macchie e di sporco. A stare sdraiati sembra che la puzza sia più forte. Mi alzo, torno a sdraiarmi 3 o 4 volte, finché mi convinco che è la stessa cosa e che almeno non c'è una grande differenza. Mi rimetto a guardare le scritte. Ci sono date e firme, date fino a 2, anche a 3 anni prima. Firme con saluti, insulti alle guardie, insulti a altri nomi, e ricorre spesso la parola infame. Infame questo, infame quello, galera infame, poi nomi di donne, con cuori, frasi d'amore, poesie, disegni di cazzi e di fighe, qualche falce e martello, qualche fascio, slogan politici di sinistra e di destra, qualche stella a 5 punte, con scritto BR, disegni e scritte modificati, stravolti, e poi dappertutto macchie di sporco, schizzi, strisce e virgole color marroncino. Mi viene in mente che potrei scrivere qualcosa anch'io. Quelli che avevano fatto quei segni li avevano fatti perché non avevano niente da fare, come me, per passare il tempo, ma non mi viene in mente niente che potrei scrivere su quei muri. Il tempo passa, non mi rendo conto della velocità con cui passa il tempo. Non posso controllarlo perché mi hanno portato via l'orologio e non si vede la luce del giorno. A un certo punto si riapre lo spioncino, appare una faccia nuova, mi fa cenno di avvicinarmi e mi passa un piatto di plastica e un bicchiere di plastica. Mi chiede se voglio la minestra. Cerco di guardare fuori dallo spioncino per vedere di che minestra si tratta. Fuori c'è un carrello di ferro, con su un enorme pentolone, un mestolo infilato in una brodaglia rossastra. Dico che non lo voglio, e allora quello mi passa un sacchetto di plastica con dentro un pezzetto di formaggio secco, 2 mele verdi raggrinzite e un pezzo di pane, quello almeno fresco. Lo spioncino si richiude, sento il rumore del carrello che si allontana, appoggio il mio pranzo sul giubbotto, perché la coperta mi fa schifo. Lavo le mele sotto il rubinetto, ma non ho fame, anche se non mangio da ieri mattina. Però mangio lo stesso, mangio lentamente, rigirandomi il cibo in bocca. Penso che anche per mangiare è meglio metterci più tempo possibile. Penso anche che deve essere solo mezzogiorno, visto che mi hanno portato da mangiare, che sono passate solo poche ore. Ho freddo, l'umidità mi entra nelle ossa, sento brividi nella schiena, mi rimetto il giubbotto con la fodera tutta strappata dalla perquisizione. Faccio un po' di movimenti per riscaldarmi, provo a misurare quanti passi posso fare nella cella, 4 passi per il lungo, 4 passi e mezzo per il largo e dietro fronte. Troppo pochi per poter far passare il tempo, così. E così torno a sdraiarmi. Libri ribelli. Libri ribelli.